Focus Economia. Bentrovati a Focus Economia da Valentina Furlanetto, sono le 17:59. Diamo uno sguardo al tema principale di oggi che riguarderà lo stato dell'industria in Italia. Arrivano delle brutte notizie dall'Istat, i prezzi alla produzione industriale nel mese di luglio sono diminuiti dello 0,4% rispetto a giugno e del 7,5% su luglio 2008. Questi i dati dell'Istituto di Statistica, il calo più ampio da gennaio 92 ed è anche un segnale quindi delle difficoltà dell'industria italiana. Ne parleremo, sentiremo l'intervento anche a Rimini del ministro dell'economia Giulio Tremonti, che ha parlato al meeting di Comunione Liberazione dopo l'intervento di ieri del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi. Tremonti ha paragonato il dibattito degli economisti sulla crisi a una riunione di maghi. Sentiremo quindi la voce del ministro, ci occuperemo anche di bot. Come sapete, due giorni fa si è tenuta l'asta per i bot a 6 mesi, che hanno attualmente un rendimento pari allo 0,55%. Una buona notizia per lo Stato, che paga meno gli interessi, una pessima notizia per i risparmiatori. Come ogni giorno tratteremo poi di borse, quindi vedremo come stanno andando, come chiuderanno le borse e i titoli. E infine parleremo in chiusura di puntata anche di vendemmia, una vendemmia con luci e ombre per i produttori italiani. Questo è il menù di oggi, ma prima di tutto le nostre notizie in breve. Apertura in rialzo per il petrolio al mercato di New York. Il greggio segna un progresso dello 0,7% a $73.02 al barile. Primi ritocchi a ribasso dei listini di benzina verde e diesel dopo la forte discesa delle quotazioni internazionali degli ultimi giorni del greggio. In particolare Total ha tagliato di un centesimo il prezzo della benzina, sceso a €1,314 al litro, e di 0,8 centesimi il diesel, arrivato a €1,145 al litro. Ritocchi a ribasso anche per APIP, che ha tagliato di 0,5 centesimi il prezzo della verde e di 0,8 centesimi quello del diesel. Poi le notizie che arrivano dal mondo, in particolare dagli Stati Uniti. La spesa personale, che è un indicatore dei consumi privati, a luglio ha registrato un rialzo dello 0,2% in linea con le attese. I redditi sono rimasti invariati contro la previsione di un aumento dello 0,1%. E sempre dagli Stati Uniti, l'indice della fiducia dei consumatori americani, che è calcolato, come sapete, da Reuters e dall'Università del Michigan, ad agosto si è attestato su quota 65,7 in base alla lettura definitiva dal 66 di luglio. Il dato è migliore delle stime degli economisti. Record di dati negativi dal Giappone. Il Giappone ha segnalato oggi un'inflazione a luglio, una flessione record del 2,2%. Il dato non solo è peggiore dell'1,7% atteso dagli analisti, ma rappresenta il calo più ampio dal 1970, anno di avvio della serie statistica. E poi ancora sempre dal Giappone, la disoccupazione è salita al 5,7% nel mese di luglio, toccando il livello più alto dal dopoguerra. Gli economisti si aspettavano un tasso che potesse eguagliare il precedente record del 5,5, ma il numero dei disoccupati è salito di ben 1,03 milioni di unità rispetto all'anno precedente. E ancora dal Giappone notizie negative. Toyota Motor ha annunciato la chiusura del suo primo impianto in 72 anni di storia. Insomma, il produttore di automobili Toyota non sta andando bene. Nei primi 7 mesi del 2009 ha segnato un crollo del 37,8% su base annua a 3,61 milioni di pezzi. Questo per quanto riguarda la produzione. Soltanto in Giappone, pensate, gli impianti del gruppo hanno costruito veicoli per 1,79 milioni di unità, il 41% in meno rispetto allo stesso periodo del 2008. La componente estera invece si attesta a 1,81 milioni di veicoli. E quindi Toyota ha annunciato la chiusura del suo primo impianto in 72 anni di storia. Poi notizie che arrivano dall'Argentina. Gli azionisti di Telco ricorreranno contro le decisioni delle autorità argentine sulla vicenda Telecom. Riassumiamo brevemente. Ieri l'antitrust argentino ha detto che obbligherà Telecom Italia a vendere i propri asset nel paese sudamericano. I tempi per il disinvestimento sono di un anno. Il nodo è la presenza di Telefonica nell'azionariato della società italiana. Poi notizie che arrivano dalla Germania. Non si terrà oggi il previsto incontro tra i vertici della General Motors e i rappresentanti del governo e delle regioni che ospitano gli impianti della casa automobilistica Opel. Sempre per quanto riguarda Opel, la cancelliera tedesca Angela Merkel alza i toni con la General Motors per una decisione rapida sulla casa automobilistica tedesca. Conferma la sua preferenza per l'offerta targata Magna, anche se non è nell'interesse della Germania fare pressioni sui tempi, ha detto la cancelliera tedesca Merkel durante un'intervista a un quotidiano. La General Motors deve vedere che ogni rallentamento danneggia la Opel e i suoi dipendenti. La General Motors ancora non ha più avuto alcun contatto con la Fiat sulla partita Opel dalla fine dello scorso maggio. Lo ha annunciato in una dichiarazione scritta inviata all'ANSA una portavoce di General Motors Europa. Notizie che arrivano invece dalla Gran Bretagna. Il prodotto interno lordo della Gran Bretagna nel secondo trimestre è stato rivisto leggermente al rialzo, a meno 0,7% rispetto ai tre mesi precedenti, da un meno 0,8% della prima lettura. Gli economisti avevano previsto una conferma della contrazione dello 0,8%. Gordon Brown, quindi restiamo in Gran Bretagna. Gordon Brown ha deciso di tagliare di 15 sterline a settimana gli aiuti economici per le famiglie più povere, una riforma con cui il governo britannico mira a risparmiare 160 milioni di sterline l'anno. Il nuovo piano, che riguarda in particolare i sussidi per l'affitto, se approvato potrebbe diventare effettivo dal 1 aprile, cioè un mese prima delle prossime elezioni. E ora andiamo ai dati che riguardano il nostro paese, l'Italia. Innanzitutto i dati di Intesa San Paolo, che ha annunciato i risultati per il secondo trimestre. La banca ha chiuso il secondo trimestre dell'anno con un utile di 513 milioni di euro, praticamente dimezzato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e con profitti semestrali a 1.588 milioni. I risultati sono migliori delle attese degli analisti. La banca darà la cedola, ma il suo ammontare per il momento, ha detto l'amministratore delegato, è prematuro. Ha detto passerà allo Stato, pur essendo confermato il ritorno al dividendo per le azioni ordinarie, appare prematuro la sua quantificazione. E sempre Corrado Passer, amministratore delegato di Intesa San Paolo, ha detto che farà ricorso ai Tremonti Bond tra settembre e ottobre. E poi la vendemmia. Dicevamo subito dopo la sigla, nell'avvio di questa trasmissione, che appunto in chiusura parleremo della vendemmia 2009. Sarà quantitativamente sugli stessi livelli dello scorso anno e la qualità si profila più che buona, ma a causa della crisi economica i prezzi del vino subiranno ribassi con punte anche del 15-20%. Coldiretti dice che i prezzi alla produzione della frutta estiva sono praticamente dimezzati rispetto allo scorso anno, su valori che mettono a rischio il futuro del Made in Italy. E ora veniamo al tema della giornata. Parliamo quindi di industria, di dati industriali. Abbiamo visto i dati dei prezzi alla produzione industriale di oggi diffusi dall'Istat. Normalmente non sono dei dati che guardiamo con ansia per capire come sta andando, però in questo periodo di recessione ovviamente anche questi possono essere degli indicatori su come si profila l'autunno che abbiamo davanti. Ne parleremo con alcuni esperti, ma come vi avevamo annunciato c'è anche da segnalare l'intervento del ministro dell'economia Tremonti a Rimini. Ieri, lo ricordiamo, ha parlato il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi. Fra poco faremo sentire un piccolo stralcio dell'intervento di ieri, ma a Rimini oggi c'era grande attesa per l'intervento appunto di Tremonti. A Rimini per noi c'è Anna Marino, buonasera. Sì, buonasera Valentina. Anche oggi qui al meeting di Rimini edizione 2008 del 2009 si parla ancora di crisi e Giulio Tremonti, ministro dell'economia e delle finanze, è ritornato su questo tema ed è stato veramente netto ironico. Ha detto che la crisi economica, in merito alla crisi economica, il silenzio degli economisti, se ci fosse ci guadagneremmo tutti, se ci fosse il buon senso da parte degli economisti di stare zitti un anno o due, ci sarebbe un guadagno da parte di tutti. E inoltre Tremonti tiene a ricordare che non è un economista, e questa volta mi aiuta, ha paragonato gli economisti a dei maghi, sentiamo. Riunioni che realmente ricordano quelle dei maghi. Tutta la nostra antropologia è fatta da maghi, Apollonio, Merlino, Fausto stesso, pure molto rispettabile, Prospero, il mago di Oz, Harry Potter, naturalmente c'è anche Mandrake, il mago Witz, Satanic, devo dire anche il mago Telma. Le riunioni degli economisti sono esattamente queste. Allora, il mago Apollonio farà apparire l'inflazione, ma ne impedirà la trasformazione in deflazione. Grandi applausi e riconoscimenti a questo prodigio magico. Quello che colpisce è che nessuno di questi ha mai chiesto scusa. Nessuno di questi ha mai detto ho sbagliato. Hanno sempre sbagliato gli altri. Il corso dei fatti credo che abbia dato non ragione a chi li critica, ma certamente torto agli economisti come hanno rappresentato la realtà. E quello che davvero fa un notevole effetto, con qualche rimarchevole obiezione, è che il coro continua. E francamente, se ci fosse il buon gusto e il buon senso da parte di tutti di starsene zitti per un anno o due, ci guadagneremmo tutti e loro stessi. Certo, Tremonti ha affondato ancora e dice, è pieno di gente che per sopravvivere dice oggi quello che per anni ha fatto, ha detto per vivere. E inoltre poco fa però si è aggiunta una notizia in più, è stato raggiunto un accordo, una cooperazione finanziaria contro la doppia imposizione fiscale tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, proprio che sarà appunto messa a punto ancora a metà settembre, e poi si prevede una definizione di questo accordo entro l'anno. E c'è ancora attesa, in questi minuti Tremonti partecipa a un incontro dal titolo Oltre la crisi con Enrico Letta, deputato PD, quindi si parla ancora di crisi al meeting di Rimini, e per ora è tutto. Grazie ad Anna Marino per noi da Rimini, che ha raccolto appunto la voce del ministro dell'economia Giulio Tremonti. Ieri, dicevamo, a Rimini c'era il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, che ha parlato di molte cose. Ieri, se avete ascoltato Focus Economia, l'avrete sentito. Noi vi vogliamo far risentire un pezzetto del suo intervento, quello che riguarda un po' più le imprese, che Mario Draghi ha detto non poche di queste rischiano la sopravvivenza. Sentiamo. La crisi lascia all'Italia un'eredità pesante. Gli investimenti sono caduti, quindi il capitale utilizzabile per la produzione è diminuito. La disoccupazione che cresce potrebbe anche danneggiare, distruggere, diminuire il capitale umano. Queste due cose fanno sì che l'eredità lasciata dalla crisi sull'Italia sia pesante, e l'uscita dalla crisi per noi è difficile. In particolare il ritorno a un sentiero di crescita, anche basso come quello precedente, è complesso. È anche per questo che dobbiamo fare quelle riforme strutturali che risolvano quei nodi che ci hanno impedito di crescere più vigorosamente per 10-15 anni prima, anche prima della crisi. Molte imprese, dicevo, sono state capaci di avviare un processo di ammodernamento tecnologico e organizzativo. Si sono spostate dal comparto originario, sono entrate in segmenti nuovi connotati da una più elevata intensità tecnologica dei prodotti. C'è ancora un ritardo di competitività con gli altri, ma il quadro che emerge è certamente dinamico. Indica che molti imprenditori sanno ancora far bene il loro mestiere, anche se altri bravi imprenditori stanno oggi soffrendo per la crisi. Qui naturalmente fondamentale è il ruolo delle banche. Ho detto in altre occasioni che questo in un certo senso è un test per i banchieri. Bisogna saper fare il banchiere anche quando le cose vanno male. Che cosa significa? Significa saper dar credito. grazie. Significa saper dar credito alle imprese che si pensa, grazie alla conoscenza che se ne ha, si pensa possano superare la crisi, e essendo invece molto cauti su quelle, nei confronti di quelle imprese dove invece si pensa che non ce la faranno. Ma questo non ce la faranno non per motivi loro strutturali, ma semplicemente perché sono imprese che la sarebbero comunque scomparse dal mercato. Come avete sentito, Mario Draghi sottolinea qua un nodo, quale sia un nodo della difficoltà di questo momento delle imprese, quello dell'accesso al credito. E proprio la BCE ha parlato ieri delle difficoltà delle imprese di accedere ancora una volta al credito. Vediamo che secondo quello che ha scritto la BCE, malgrado la grande massa di liquidità immessa nel sistema dalla BCE e i bassi tassi di interesse, gli istituti di credito sono ancora riluttanti a concedere finanziamenti. In aggiunta, nonostante i primi segnali di ripresa dell'economia, anche la domanda di credito, specie per nuovi investimenti, sembra rimanere limitata. Questa quindi un'altra delle difficoltà delle quali lamentano le imprese in questo momento. Di tutto questo parliamo con un economista, il rettore dell'Università di Ferrara, il professor Patrizio Bianchi. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, se è rimasto in ascolto negli ultimi minuti avrà sentito innanzitutto l'intervento del ministro Tremonti, poi abbiamo ricordato cosa aveva detto Draghi ieri sempre da Rimini e abbiamo aggiunto questi due tasselli, il dato dell'Istat, i prezzi alla produzione industriale, e poi questo dato della BCE sulle difficoltà di accesso al credito delle imprese. Tutti questi elementi possono far pensare che le industrie italiane in questo momento facciano ancora più fatica a afferrare questa ripresa, se mai di ripresa si può parlare? Sì, devo dire che trovo molto divertente la idea che gli economisti vengono presi come categorie umane assomiglianti tutti a Harry Potter. In realtà non ci sono gli economisti, ci sono degli economisti che sparano delle sciocchezze, ci sono dei ministri che sparano delle sciocchezze, ci sono molti istituti che ci stanno dando da tanto tempo dei dati e ci sono anche le banche centrali che, facendo il loro mestiere, hanno messo in guardia tutti i governi da prendere sotto gamba la crisi. Per quanto riguarda noi, noi abbiamo due crisi, ricordiamolo, c'è la crisona, la grande crisi cominciata nel 2007, ma c'è la crisi cominciata nel 15 anni fa, e da allora l'Italia cresce meno, sempre meno di tutti gli altri paesi d'Europa. Mario Draghi ci ha ricordato che questa grande crisi cominciata nel 2007 si è insediata su quella precedente e il rischio è non di tornare e uscire dalla crisi, ma semplicemente di tornare a galleggiare come abbiamo fatto negli ultimi 15 anni. Questo è il vero problema. Il vero problema è qual è l'obiettivo che oggi ci diamo. Se l'obiettivo è quello di tornare a essere un paese a bassa crescita, con basse possibilità di sviluppo e con lavori precari, beh, tutto sommato la crisi possiamo dire dietro le spalle. Se invece vogliamo un paese che sia in grado di generare tutte quelle occasioni di sviluppo di cui Mario Draghi ieri parlava, beh, allora bisogna veramente affrontare ancora molti nodi. Professore, questi dati sui prezzi alla produzione industriale, dicevamo, i peggiori dal 1992, in che maniera preoccupano, perché ci preoccupano? I dati dei prezzi vanno presi sempre con pinze e pinzette, anche quelli della produzione industriale. Questi però vogliono dire semplicemente che la macchina è ferma. Noi abbiamo dei dati interessanti oggi in giro per l'Europa, sappiamo che gli indici di produzione industriale stanno riprendendo sia in Germania che in Francia, e sappiamo anche un'altra cosa, sappiamo che gli ordinativi italiani, cioè le richieste per il futuro, ma allo stato attuale la macchina è ferma, cioè i prezzi industriali ci dicono che siamo ancora sui rulli, siamo in stand-by. Per quanto riguarda le aree d'Italia, ci sono aree più a rischio? Si parla sempre del fatto che questo paese, grazie a una forti distretti in cui ci sono molte piccole, certo, piccolissime imprese, forse sarebbe un po' più al riparo dalla crisi. Può essere così? E poi quali di queste aree? Abbiamo visto alcuni distretti sono un po' più in difficoltà in questo momento, altri leggermente meno. L'Italia è più al riparo dalla crisi perché ha piccole, piccolissime imprese? E poi quali aree sono, rischiano, insomma, di vedere la ripresa più tardi o di non vederla proprio? Ma guardi, questa idea che l'Italia sia più a rischio degli altri o meno a rischio è una cosa da prendere con molta attenzione. Il Fondo Monetario pubblica dei dati in continuo che fanno vedere una sorta di mappa continua della produzione. La caduta in Italia della produzione è stata meno violenta che da altre parti, semplicemente perché noi eravamo più bassi. È come se lei fosse arrivata al 30° piano, si butta e arriva giù a terra, o lei si butta dal 5° piano. La nostra caduta è stata, il tonfo è stato meno forte semplicemente perché il nostro tasso di crescita era già prossimo a zero. Il punto di fondo è che purtroppo i tre elementi che per tanti anni sono stati considerati gli elementi di forza del sistema industriale italiano, cioè la piccola impresa, l'impresa familiare, l'impresa a bassa tecnologia, quella che in un qualche modo è stata chiamata l'Italia del Made in Italy o l'Italia dei distretti, oggi questi tre elementi vengono considerati, e qui la relazione della Banca d'Italia è stata chiarissima, non solo ieri, ma la relazione della Banca d'Italia è stata chiarissima, sono oggi considerati i tre fattori più critici per lo sviluppo italiano, perché sono i fattori che vincolano la possibilità di fare investimenti di lungo periodo in tecnologie più elevate. C'è un nodo strutturale che riguarda proprio la organizzazione del sistema produttivo. Queste sono le cose che Mario Draghi ha provato a dire e queste sono le cose che tutte le istituzioni internazionali provano a dire. Queste sono le cose che visibilmente il ministro Tremonti non si vuol sentir dire. Quindi lei da economista ha risposto anche al ministro Tremonti che appunto diceva, come avete sentito, gli economisti forse dovrebbero stare zitti un anno o due, ci guadagneremo noi tutti, diceva il ministro Tremonti. Però abbiamo sentito il professor Patrizio Bianchi, la ringraziamo per il suo intervento. Bentornati a Focus Economia, stavamo parlando poco fa di industria, cercando di capire dai dati dell'Istat ma anche da altri piccoli input che ci arrivano qua e là e dalle affermazioni del ministro dell'economia Giulio Tremonti a Rimini, se quest'autunno le imprese italiane si devono aspettare una ripresa o meno, ma anche i mercati ovviamente attendono una ripresa per l'autunno. Vediamo com'è andata intanto la giornata. Giornata positiva per Piazza Affari, il FTSE IT All Share ha guadagnato lo 0,81%, il FTSE MIB lo 0,88%, è stata una giornata con il segno più anche per gli altri mercati in Europa, Francoforte più 0,81%, invece Parigi più 1,22%, Londra anch'essa positiva, e per quanto riguarda invece New York, il Nasdaq guadagna lo 0,38%, negativo invece il Dow Jones meno 0,35%. Sul mercato milanese, tra i migliori nella giornata che è stata contraddistinta dalle semestrali di alcune di queste aziende, tra i migliori ST Microelectronics che ha guadagnato il 12,24% e poi Intesa San Paolo, lo dicevamo, sono stati dati i conti di Intesa San Paolo, il titolo ha guadagnato il 2,43%, questi i migliori di Piazza Affari. Fra i peggiori Monte dei Paschi di Siena meno 3,06%, invece Autogrill ha ceduto il 2,40%. Le borse in generale sono state positive in Europa perché sono andati bene i titoli tecnologici e in Italia sono andate bene anche le banche. Ma per parlare di tutto questo, per avere più ragguagli, abbiamo in diretta il collega di radio con il Sole 24 Ore, Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Allora, dicevamo bene, i titoli tecnologici sono andati bene, in particolare abbiamo visto la grande performance di ST Microelectronics. Ci sono più ragioni, mi sembra, perché questo titolo ha guadagnato così tanto. Sì, ci sono delle ragioni che arrivano, diciamo, dagli Stati Uniti con le buone indicazioni arrivate da Dell e da Intel, e ci sono anche ragioni proprie di ST Microelectronics, che oggi ha beneficiato di un rialzo del target da parte degli analisti di Bank of America, che hanno appunto rivisto al rialzo il prezzo obiettivo sul titolo da 6 a 7 euro. In generale, con questa, come dicevi cioè anche tu, una giornata molto positiva per i titoli tecnologici e in particolare per ST Microelectronics. Ad innescare gli acquisti sono stati già in mattinata i conti di Dell, che sono stati superiori alle attese degli analisti. Poi nel pomeriggio sono arrivate ulteriori conferme del buon momento del settore informatico e tecnologico da Intel, che ha alzato le sue stime di fatturato e margine operativo lordo per il terzo trimestre. Quindi insomma, due buone notizie che arrivano dagli Stati Uniti, che mostrano come il settore sia fiorente in questa fase. Per quanto riguarda Intesa San Paolo, dicevamo, ci sono stati i dati, ne abbiamo parlato anche noi, l'utile si è dimezzato nel secondo semestre, però ha fatto meglio delle attese del mercato, per questo probabilmente il titolo è andato bene. Sì, c'erano, diciamo, già negli ultimi tempi si era registrato sul mercato il fatto che probabilmente Intesa San Paolo avrebbe presentato dei conti migliori delle attese. Poi oggi è stato effettivamente così, gli analisti si attendevano un utile trimestrale attorno ai 400 milioni, la banca ne ha fornito uno di 513 milioni, quindi ben 100 milioni più di quello che era nelle stime, nonostante appunto ci siano un utile dimezzato, i conti sono stati giudicati molto positivamente dal mercato. Gli altri bancari invece? Gli altri bancari si sono mossi un po', diciamo, un po' macchia di leopardo, perché è andata bene ad esempio Mediolanum, dopo che l'amministratore delegato Ennio Doris ha sottolineato che anche nel terzo trimestre la banca fornirà dei conti buoni, nonostante il secondo trimestre avesse incorporato delle poste straordinarie che non ci saranno più nel terzo trimestre, ma insomma i risultati dovrebbero essere comunque soddisfacenti secondo l'amministratore delegato. Fra le altre banche si è mossa bene anche Unicredit, che ha guadagnato l'1,07%, mentre come dicevi tu, in controtendenza è andata Banca Monte dei Paschi di Siena. Anche qui oggi abbiamo avuto la presentazione dei conti semestrali, che si sono chiusi con un utile di 332 milioni rispetto ai 552 milioni del primo semestre 2008. I conti di Monte dei Paschi non sono stati definiti particolarmente buoni dagli analisti e dagli operatori, se non per il fatto che c'è una leggera risalita del Tier 1, quindi del misuratore della solidità patrimoniale della banca, che passa al 5,8% con un incremento di 20 punti base, ma soprattutto che potrebbe migliorare ancora con i Tremonti Bond e con la cessione degli immobili. Tra gli altri bancari negativi vedo anche Banca Italise. Sì, Banca Italise ieri aveva fatto un exploit guadagnando il 30% in attesa dei conti semestrali, oggi invece ha ceduto parte di quei guadagni, è arretrato del 6,38%. È un titolo che dopo che il Banco Popolare ha ottenuto l'88% delle quote è diventato anche molto poco liquido, per cui molto soggetto a grandi balzi sia verso l'alto che verso il basso. Come ieri aveva guadagnato molto, oggi ha ceduto, i conti semestrali, come era naturale attendersi, non hanno presentato particolari motivi di sollievo per l'istituto, che resta comunque in difficoltà. Ha chiuso i primi sei mesi dell'anno con perdite per 160,4 milioni rispetto a un utile di 30 milioni un anno fa, per cui insomma ha ritracciato dopo i forti guadagni speculativi di ieri. Invece vedo che l'annuncio dei conti ha fatto bene a Tiscali, più 13%. Sì, anche qui abbiamo avuto un rialzo che sia i trader che gli analisti non riescono bene a giustificare. Che non è giustificato dalla presentazione dei conti semestrali. Sì, perché in fondo i conti che ha presentato Tiscali mostrano una perdita netta di 402,8 milioni, una perdita quindi importante, anche se va calcolato che di questi 402 milioni circa 345 sono la minusvalenza per la cessione di Tiscali UK. L'amministratore delegato del gruppo, Mario Rosso, comunque invita anche a guardare gli aspetti positivi di questi risultati e ha sottolineato come l'azienda appaia ormai risanata, visto che è incrementata la redditività del gruppo e anche per quello che riguarda Tiscali Italia S.p.A., quindi non il gruppo ma solo Tiscali Italia S.p.A., si registra un utile di 6 milioni di euro. La società inoltre ha approvato anche un raggruppamento delle azioni e queste operazioni spesso fanno salire i titoli in borsa. Fiat, ci chiede un ascoltatore, più 0,54%. Sì, nessun movimento particolare oggi su Fiat, che ha chiuso sostanzialmente in linea con i guadagni fatti registrare dal listino nel suo insieme. Anche Telecom è in leggero guadagno, più 0,6, nonostante la faccenda dell'Authority, il titolo sembra non aver avuto scossoni. Sì, anche perché si preannuncia una trattativa piuttosto lunga, dopo che l'antitrust argentina ha annunciato che la compagnia italiana sostanzialmente dovrebbe essere obbligata a cedere la controllata in Argentina. Oggi gli azionisti di Telco, che ha il pacchetto di controllo di Telecom Italia, hanno fatto sapere di ritenere infondate le motivazioni opposte dell'autorità argentina e che pertanto si riservano di adottare i provvedimenti più opportuni nelle sedi competenti, quindi si profila un ricorso su questa decisione dell'autorità argentina. Vedo Autogrill, la seconda peggiore del listino dopo Banca del Monte dei Paschi, meno 2,40%, anche qui ci sono delle ragioni per questo calo? Oppure sono soprattutto prese di beneficio. Autogrill è cresciuta molto nelle ultime settimane, per cui non ci sono ragioni particolari se non il fatto che gli operatori a questo punto iniziano anche a prendere un po' beneficio, portando a casa i guadagni già realizzati. Grazie a Guido Maurino di Radio Corrisole 24 ore per questi aggiornamenti sui titoli di oggi. E adesso parliamo di un altro tema che avevamo annunciato in apertura, ossia quello dei bot. Abbiamo visto proprio mercoledì che c'è stata un'asta dei bot a 6 mesi con rendimenti insomma semestrali che sono ormai a livelli prossimi allo 0,08%. Abbiamo in collegamento Moria Longo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Tu avevi scritto proprio sui bot e te ne stavi occupando, so che stai scrivendo sui paradossi della crisi, non so se i due temi in qualche maniera si possono toccare. Di sicuro il fatto che i bot, che sono sempre stati uno storico rifugio di pensionati, casalinghe, insomma delle persone comuni, rendono sempre meno. Buone notizie, come dicevamo, per lo Stato in un periodo in cui molti paesi vanno sul mercato a finanziare la forte espansione del proprio debito, però non è così per i piccoli investitori. Sì, difatti diciamo che di piccoli investitori ormai sulla strada dei bot se ne vedono veramente pochi, perché lo 0,08 che a cui accennavi tu prima è il rendimento netto anche delle commissioni delle banche, il rendimento lordo è un po' più alto ma comunque siamo sempre sullo 0, quindi è un mercato che ormai a piccolo risparmiatore può interessare poco, perché diciamo che è quasi come un conto corrente o giù di lì, anzi ormai ci sono conti correnti molto più remunerativi. Il motivo per cui i tassi sono così bassi, tra l'altro oggi c'è stata anche un'asta di un collocamento quindi da parte del Tesoro di BTP, e anche qua i rendimenti sono ancora in calo. Il BTP a 3 anni per esempio è sceso al 2,19% lordo, che è un rendimento minimo dal 2005. Il motivo per cui i rendimenti, soprattutto a breve scadenza, stanno scendendo così tanto è che c'è tantissima liquidità sul mercato, cioè le banche centrali, i governi, ma soprattutto le banche centrali in Europa, la BCE, hanno, per superare quella crisi che a marzo sembrava ormai quasi la fine del mondo finanziario, hanno inondato così tanto il mercato di liquidità che il denaro ormai costa praticamente nulla, costa molto meno dei BTP o dei bot, per cui gli investitori istituzionali, soprattutto banche, ma anche fondi, ma molto le banche, comprano questi titoli perché in realtà riescono ad avere denaro a un costo ancora inferiore. Per esempio, poco fa parlavo con un operatore che mi faceva un esempio, mi diceva: oggi un BTP a 2 anni rende l'1,65%, basta che la banca vada a finanziarsi presso la Banca Centrale Europea, che presta i soldi all'1% e già si guadagna lo 0,65 comprando quel BTP. Se una banca si finanzia sul mercato con altre banche attraverso un pronti termini, pagando lo 0,65% guadagna l'1% automaticamente e matematicamente quasi. Per cui è diventato proprio, c'è talmente tanta liquidità che costa così poco il denaro che anche rendimenti così bassi per un investitore istituzionale sono attraenti. Bentornati a Focus Economia, siamo in collegamento con Moria Longo, collega del Sole 24 Ore, con il quale stiamo parlando dei bot sempre meno nei portafogli dei clienti come i pensionati, le casalinghe, lo storico popolo dei bot, ma sempre più nel portafoglio delle banche, così Moria? Sì, delle banche o degli investitori istituzionali, perché ripeto, un investitore retail, un piccolo risparmiatore di fronte a un rendimento dello 0,08% non si va certo a strappare i capelli per comprarlo, mentre invece gli investitori, diciamo, di un altro livello, più sofisticati, che possono ovviamente muovere quantità di denaro molto maggiori e poi riescono a giocare sui differenziali tra i tassi sul mercato interbancario rispetto a quello dei bot o dei BTP, hanno dei margini di guadagno ed è per quello che le aste, è anche per quello, poi ovviamente ci sono mille motivi per cui le aste dei titoli di Stato continuano ad avere una buona domanda. Sì, perché a fronte di rendimenti così bassi, in realtà le aste vanno molto bene. Lo ricordiamo, l'asta di ieri, la quantità richiesta è stata 1,5 volte quella offerta dal Tesoro. Quindi, sì, stiamo parlando di, mi sembra, domanda totale 16 miliardi di euro, che poi è vero che è una domanda, essendo un'asta, una parte di questa domanda non è mai un prezzo di mercato e quindi va un po' depurato quel dato ai 16 miliardi, comunque si parla ancora di tantissimi miliardi, quindi vuol dire che c'è un appeal e l'appeal è dato proprio, a mio avviso, in base a quello che ho sentito sul mercato, è dato proprio dal fatto che il denaro per le banche, per gli investitori costa ancora meno, per cui uno può prendere denaro a poco e investirlo un poco di più e quindi ha un guadagno quasi immediato. Per dare un'idea agli ascoltatori di quanto rendessero i bot, per chi non lo ricordasse, nel 1983 il rendimento lordo dei bot annuali in percentuale, ovviamente parliamo di molti molti anni fa, era del 17,74%. Nel 92, quando però c'è stata la crisi della lira, era ancora del 15%, poi è sceso progressivamente, però ancora nel 2000 rendevano il 4,6%, quindi una caduta libera. Sì, perché questo, vabbè, ovviamente con l'ingresso nella moneta unica i tassi della lira non ci sono più stati e quindi questo è normale, è un processo ovvio, ma quello che sta accadendo adesso è ancora di più, perché qua siamo non solo nell'euro ma siamo anche in un'economia che sta cercando di riprendersi da una crisi ed è interventi fatti dalle banche centrali e dai governi proprio per risolvere il problema della crisi che sono senza precedenti sostanzialmente, cioè una quantità talmente immensa di denaro che è stata immessa sul mercato sia per salvare le banche, per salvare l'economia, ma proprio poi anche denaro proprio immesso sul mercato dalle banche centrali che non hanno precedenti neanche se si confrontano con il piano Marshall dopo la seconda guerra mondiale, anche attualizzando i costi dell'allora piano. Quindi questo sta creando, a mio avviso, una serie di distorsioni anche sul mercato e sta creando appunto questa forte domanda sia sulle azioni, sia sulle obbligazioni, per esempio anche le obbligazioni societarie, cioè quelle emesse da aziende, stanno facendo il boom, hanno fatto il record di emissioni, è stato superato quest'anno più di 1.000 miliardi di dollari di emissioni totali nel mondo, cosa che non era mai successa in nessun anno del passato. Questo vuol dire che le imprese si stanno indebitando, stanno vendendo le loro obbligazioni agli investitori che le comprano e c'è una domanda fortissima anche su quelle, quindi c'è domanda ovunque, cioè ogni titolo, ogni tipo di investimento in questo momento sta avendo domanda, sta avendo rendimenti e performance strabilianti. Questo perché a mio avviso c'è tanta liquidità, gli investitori istituzionali, le banche, i fondi e così via li investono, hanno questi soldi, li investono, soprattutto siccome il denaro, come dicevo prima, costa veramente poco, fanno è facile quello che in gergo si chiama, una volta lo chiamano carry trade. Fino a prima della crisi tanti investitori andavano a indebitarsi in Giappone, dove i tassi erano molto bassi, e compravano obbligazioni, che ne so, dei paesi emergenti dove i tassi erano molto alti. Oggi il carry trade lo puoi fare nella tua stessa area, nel tuo stesso paese, ti indebiti sul mercato. Carry trade sarebbe per non tecnici? Sì, no, è quello che dicevo prima. Il carry trade è un termine tecnico, ma è un meccanismo semplicissimo. Un fondo, questo veniva prima della crisi, andava in Giappone, dove i tassi erano vicini allo zero ai tempi, prima della crisi, e prendeva soldi in prestito pagando interessi dello zero virgola, e andava a investire con quei soldi, li investiva, che ne so, in obbligazioni del Brasile che rendono l'8%, quindi tutti in debiti a 0, investi all'8% e guadagnato il 7%. Quello avveniva prima della crisi, oggi avviene la stessa cosa praticamente quasi sul mercato domestico, cioè in Italia o in Europa comunque. Tu prendi soldi sul mercato interbancario, la Banca Centrale Europea, a un tasso basso, e lo investi in, per esempio, BTP a 2 anni, a 3 anni, che hanno un tasso basso ma un pochettino più alto, e quindi ci guadagni automaticamente. È proprio quasi un giochino. Un paradosso della crisi. Domani leggeremo il tuo pezzo sul Sole 24 domani, Ore. Domenica sarà. Ah, ecco, domenica. D'accordo, grazie a Moria Longo, collega del Sole 24 Ore. Noi invece andiamo a parlare, invece, in chiusura di trasmissione, di vendemmia. Insomma, siamo quasi a settembre, si può definitivamente fare un po' un punto almeno su quello che sta accadendo. Giuseppe Martelli, direttore di Asso Enology, buonasera. Buonasera a lei, radioascoltatori. Allora, abbiamo alcuni dati che arrivano da voi che sono confortanti sul profilo della qualità, se non altro, un po' meno confortanti sul profilo della crisi, dell'impatto della crisi sui prezzi, è così? Beh sì, d'altra parte in questo momento non possiamo neanche aspettarci di fare fuochi artificiali col vino. O bollicine, insomma. O bollicine. Quindi l'Italia come sta andando dal punto di vista, appunto, della produzione, della qualità e poi degli effetti che può avere la crisi economica sui prezzi del vino? Beh, da un punto di vista di produzione, appunto, tutti gli scenari sono aperti, ma sono anche orientati al positivo. Produrremo quest'anno circa 46 milioni di ettolitri, 46.3 milioni di ettolitri di vini, praticamente una quantità pari a quella dello scorso anno, di qualità assai interessante. Se questo caldo tropicale però ci lascerà respirare, perché se anche le prossime settimane, speriamo di no, perché gli orientamenti non sono in questo senso, ma continueranno queste temperature altissime, sicuramente avremo dei decrementi sia a livello quantitativo e qualitativo, che, come dicevo, per il momento è più che mai interessante, sia per i vini bianchi che per quelli rossi, anche se per quelli rossi c'è sempre un punto interrogativo, visto che la vendemmia entrerà nel suo pieno in tutta Italia, ossia da Bolzano a Pantelleria, diciamo dopo la quindicina di settembre. Per i prezzi all'ingrosso, leggo dai vostri dati, potrebbero subire ribassi con punte anche del 15-20%, con conseguenze sulla sostenibilità finanziaria di molte imprese. Quindi anche le imprese di questo tipo possono in questo momento subire qualche contraccolpo? Beh, corretto, ma bisogna fare una premessa, cioè il discorso sta anche a monte, nel senso che oggi come oggi chi vende vino, cioè la produzione, ha dei livelli di prezzo, diciamo, degli stessi prezzi dello scorso anno, quindi dello stesso periodo del 2008. Però appunto, siccome i momenti sono difficili e le esportazioni in particolar modo, che sono la nostra grande valvola di sfogo, fanno registrare una tenuta dei mercati in termini quantitativi, però un decremento del 9% del valore, il che vuol dire che il consumatore, avendo meno possibilità di spesa, cerca di orientarsi verso prodotti che costano meno. Le aziende, per non perdere i mercati, cercano di assottigliare al massimo i propri guadagni, e di conseguenza diciamo le prospettive per i prossimi mesi sono di un decremento non non di tutti, però in particolar modo di quei prodotti che è sempre più difficile piazzare sul mercato, e quindi se si vogliono vendere a livello di produzione bisogna per forza abbassare i prezzi. Quando si parlava, quando lei parlava di anche un 15 o 20, questa è una prospettiva di massima, cioè rispetto agli stessi prezzi dello scorso anno. Speriamo di aver sbagliato e che queste percentuali siano inferiori. Grazie a Giuseppe Martelli, direttore di Asso Enologi, non perché Malcomune faccia mezzo gaudio, ma insomma sembra anche che i vini francesi, le esportazioni di vini francesi abbiano qualche sofferenza, è prodotto a soffrire di più, leggo da un'agenzia, lo Champagne, che cala del 41,1%. E per oggi è tutto, io mi scuso per la voce di oggi, ovviamente l'aria condizionata ha colpito anche Radio 24. Ringrazio in regia Fabio Cantadori, in redazione Mauro Del Corno. Focus Economia torna lunedì.